Storie italiane. Il gigante egoista. C'era una volta un grande castello in mezzo a un villaggio, disabitato da molti anni. Nessuno viveva lì. Una leggenda narrava che un gigante abitasse in quel castello, ma nessuno in quegli anni aveva mai visto quella grande creatura. Hai mai sentito parlare del gigante di questo castello? Immagino che siano voci. Non dovremmo crederci. Qualcuno di voi ha mai visto quel gigante qui? No. Dovremmo goderci la bellezza di questo posto, piuttosto che prestare attenzione a tali voci. Allora, dimmi, chi si prende cura di quel giardino? C'era un bel giardino intorno al castello. Era pieno di fiori, alberi, frutti, uccelli e farfalle. Ogni giorno, molti piccoli bambini giocavano nel giardino. Era il posto più gradito e sicuro per tutti loro. Giocavano e si divertivano. Correre dietro alle farfalle era il loro gioco preferito. Ehi, guarda quella farfalla arancione! Proverò a prenderla! Yeah! Corri a prenderla, ma non farti male! Non preoccuparti! Il giardino era bello come il paradiso, ma un giorno arrivò il gigante. Era felice di vedere il suo bellissimo giardino ben curato. Ah, il mio bellissimo giardino! Sembra che ancora sia benedetto da Madre Natura. Sono felice di essere tornato. Era pomeriggio quando il gigante tornò al castello. Non c'erano bambini che giocavano nel grande giardino e il gigante amava tutta quella pace. Tuttavia, la sera, il gigante fu disturbato dal rumore che proveniva dall'esterno. I bambini si stavano recando al giardino per giocare. Il gigante amava vivere da solo. Non gli piaceva che qualcuno lo disturbasse. Decise di uscire e controllare. Quando il gigante entrò nel giardino, i bambini che giocavano lì si spaventarono. Tutti iniziarono a urlare e correre tutto intorno. Stavano cercando una via di fuga. Il gigante era molto arrabbiato nel vedere così tanti bambini giocare nel suo amato giardino. Andate via, piccoli mostri! Rovinate il mio bellissimo giardino! Andate via! E non provate mai ad entrare nel mio castello! Questo è il mio giardino, non il vostro! Tutti i bambini che giocavano lì si precipitarono fuori dal giardino e tornarono a casa. Il gigante tornò al castello e godette della sua solitudine. La creatura si addormentò nuovamente. I bambini pensarono che il gigante se ne fosse andato. Avevano una gran voglia di giocare e perciò ritornarono nel bellissimo giardino. Il gigante si svegliò di nuovo e trovò i bambini che giocavano. Si infuriò e li urlò contro. Loro, spaventati, fuggirono e da quel momento il gigante tenne d'occhio il giardino. Non dormiva per fare la guardia. A notte fonda vide un ramo di un albero fiorito che cadeva giù. Non ne capiva il motivo e il mattino seguente il gigante vide di nuovo alcuni bambini che giocavano nel suo giardino. Si precipitò fuori con molta rabbia. I ragazzini si spaventarono alla vista del volto di quel gigante arrabbiato. Il gigante decise di aumentare l'altezza delle mura di cinta del castello. Finalmente la grande creatura era tutta sola nel suo castello. Nessuno poteva più entrare. Il gigante è molto egoista. Come fa a godere di quel giardino tutto da solo? Deve essere una persona molto triste. Dovremmo scoprire perché è così giù. Gli chiederemo di giocare con noi. Possiamo chiederglielo solo quando saremo autorizzati ad entrare. Il gigante dormiva sempre. Quando era sveglio, si affacciava alla finestra e osservava la bellezza del suo giardino. Ma notò che alcuni rami cadevano giù ogni ora di più. E pensò: forse sarà il cambio della stagione. Quando arriverà la primavera, il mio giardino fiorirà di nuovo. Stette alla finestra per tutto il gelido inverno, osservando il suo giardino seccarsi giorno dopo giorno. Attenderò la primavera. Sono certo che il mio giardino fiorirà e sarà più bello che mai. La primavera arrivò e se ne andò. ma il giardino era tutto appassito. Non ne rimase nemmeno un fiore. Niente uccelli, niente farfalle. Il gigante era molto infelice. Perché non sboccia nessun fiore nel mio giardino? Perché Madre Natura ha distolto il suo potere magico dal mio castello? Madre Natura è arrabbiata con me? Ma perché sarebbe arrabbiata? Il gigante ci pensò giorno e notte. Era stufo della sua solitudine. Un bel giorno, alcuni bambini entrarono di soppiatto nel giardino. Giocarono per molto tempo, finché il gigante non li vide. La creatura si arrabbiò molto con loro. Corse verso di loro urlando. Tutti i bambini scapparono dalla paura, tutti insieme, tranne uno di loro. Il gigante vide un ragazzino in piedi sotto un albero. Tremava come una foglia mentre la creatura si avvicinava. Il piccolo piangeva. E tu cosa ci fai qui? Per favore, non uccidermi! Non verrò mai più nel tuo giardino! Io uccido le persone? No! Non sono una persona cattiva! No, no! Non uccido nessuno! Non aver paura! Non piangere! Voglio andare a casa! Per favore, lasciami andare! Cosa stavi facendo prima che tu venissi qui? Volevo salire su questo alberello, ma non ci riesco! Oh, è così? Lascia che ti aiuti! Il gigante sollevò il ragazzo e lo mise sul ramo dell'albero. Adesso chiami i tuoi amici, così voi potete giocare. Il gigante vide il bel sorriso sul volto del ragazzino. Il bambino chiamò i suoi amici per giocare e tutti i bambini entrarono. Il gigante intanto tornò al castello. Sulla via del ritorno vide una piccola pianta con dei fiorellini. Era sorpreso nel vederli e anche felice. Si voltò per vedere i bambini giocare allegramente. I ragazzini ripresero a correre tutti intorno come un tempo. E molto presto, il giardino magicamente rifiorì come in passato. Il gigante, affacciato alla sua finestra, capì la vera essenza e bellezza del suo magnifico giardino.